E allora, benvenuti a tutte e a tutte sulla trasmissione Entropia Massima. Quest'anno, sapete, iniziamo alle 8, orario nuovo, invece che 8 e un quarto, iniziamo alle 8 e finiamo alle 8 e 45. E oggi è il momento di parlare di economia e ambiente. Abbiamo con noi Alberto che ha preparato una puntata su cosa, Alberto? Sul freddo? Sì, sul... Il titolo potrebbe essere l'estate calda, l'estate torrida, non so, qualcosa del genere. Va bene, allora ti cedo subito la parola, vai. Bene, allora il titolo dipende dal fatto che è mia intenzione non dimenticare quello che è successo quest'estate, perché è stata un'estate che non è una svolta, ma è la conferma di una serie di fenomeni che non possono più essere discussi. Ecco, però c'è un problema, perché i giornali con il primo freddo dimenticano tutto quello che è successo nei 3 mesi precedenti, e noi stessi facciamo finta che ormai adesso soffriamo per il freddo e ricordiamo dell'estate solo gli aspetti positivi, le vacanze, un po' di calduccio, eccetera. In realtà è stata un'estate molto pesante per direi centinaia di migliaia di persone, e soprattutto, come dicevo, questi fenomeni hanno assunto delle dimensioni, delle caratteristiche, i fenomeni ambientali, che rendono la situazione sempre più drammatica. Io non sono un catastrofista, però insomma sono seriamente preoccupato. Allora, il primo fenomeno di cui vorrei parlare, per ricordarlo, è il fenomeno dei cicloni, di questi fenomeni che partono in genere dai Caraibi, nell'oceano vicino ai Caraibi, e poi salgono verso gli Stati Uniti, passando per la Florida e una serie di isole dei Caraibi. E questi fenomeni sono stati studiati e ci sono delle statistiche, cioè in pratica ci sono dei centri di ricerca che sono in grado di definire una specie di previsione di quello che succede all'inizio dell'estate. E la previsione era 6 grandi cicloni, poi 10 più piccoli, insomma, cioè c'era una previsione abbastanza precisa e dettagliata, e soprattutto suffragata dai dati precedenti, perché era tratta dalle cose successe nelle estati precedenti. In realtà cosa è successo? È successo che è partito un ciclone. Il nome, voi sapete, i cicloni hanno tutti un nome, nel senso che vengono battezzati quando cominciano e poi vengono seguiti e vengono chiamati con il loro nome, che è un nome di persona in genere. E il primo si chiama Harvey, e il piccolo particolare è che la sua potenza è stata la più forte di tutto il periodo precedente. E per potenza si intende da un lato il vento che soffia, e quindi che crea vortici, che quindi crea una serie di situazioni sulla terra e sul mare, e soprattutto dipende dalla, appunto, dalla quantità di aria che spingono, che spostano, che tormentano, se volete. Poi questi fenomeni in genere partono con una velocità superiore ai 100 km all'ora, in genere sono intorno ai 150 km all'ora, questa volta hanno superato i 150 km all'ora, però poi si spostano e mano a mano perdono di intensità, cioè i venti rallentano, tutto quello che viene trasportato è in decrescita. E il problema è che questa volta il primo ciclone si è prolungato per un numero di giorni, e quindi con alto livello, ed è stato declassificato a tempesta soltanto dopo circa 12 giorni, quindi aveva percorso un lungo cammino e aveva fatto disastri in prima il punto di partenza, il punto dove prende terra per la prima volta, perché nasce nell'oceano, sono le isole caraibiche, e poi sale Florida e poi entra negli Stati Uniti. Però in genere gli Stati Uniti dopo la Florida si spostava verso il mare e continuava a perdere di potenza, e quindi in realtà non era successo niente. Questa volta si è spostato verso il Texas, quindi ha girato in un modo diverso, e quando è arrivato sul Texas era ancora più pesante delle quello che è successo nelle isole, e quindi per la prima volta negli Stati Uniti diciamo sono successe delle cose molto pesanti. Poi, come se non bastasse, questo è avvenuto alla fine del mese di agosto. Al primi di settembre è partito un altro ciclone, ancora più forte del precedente. Quindi la cosa era molto nuova, perché in genere hanno uno spazio fra l'uno e l'altro, e quindi questo spazio non c'è stato. Questa volta si sono succeduti in maniera molto rapida, con pochissimi giorni di intervallo fra l'uno e l'altro, e soprattutto il secondo ciclone sembra abbia raggiunto i 300 km all'ora. Cioè, non so se è chiaro, cioè un vento che va alla velocità di una Ferrari o di una Formula 1, no? Cioè, quindi sposta masse di aria e di acqua estremamente rilevanti. Allora, che cosa è successo? Vediamolo un attimo, perché i giornali hanno coperto abbastanza bene questo fenomeno, quindi ci sono state parecchie notizie, però c'è un problema con i giornali, credo che questo lo sappiano tutti, però poi continuiamo a dimenticarcelo. Finita la notizia, cioè danno la notizia, calcano la mano sui titoli quando inizia il fenomeno, e poi mano a mano il fenomeno viene, come posso dire, trascurato in termini di colonne di giornale dedicate allo stesso. E quindi invece, se uno li mette tutti in fila e poi li legge insieme, l'analisi è molto diversa, e soprattutto poi vengono completamente dimenticati quando è terminato, cioè quando si è trasformato in una normale tempesta, che poi tanto normale non è, però poi non si sa tutto quello che succede dopo. Faccio un esempio: quando si è mosso dopo Harvey, si è mosso Irma, il successivo forte fenomeno, in tutta la parte appunto Florida si sono mossi più di 6 milioni di persone, hanno preso la macchina e sono fuggiti, cioè hanno chiuso casa, hanno cercato di chiudere la casa in maniera più del solito, cioè inchiodando assi sulle finestre, sulle porte, eccetera eccetera, non hanno potuto fare niente sui tetti e sono scappati, perché i tempi poi sono stati, ripeto, estremamente veloci, cioè la successione dei due è stata estremamente forte. L'altro elemento importante è che quando il primo ciclone ha investito il Texas, non ha investito soltanto Houston, cioè una delle grosse città degli Stati Uniti, ma ha investito tutta la zona petrolifera, cioè la più grande parte degli impianti petroliferi, cioè in tutta la zona investita dall'uragano rappresentava il 47% degli impianti petroliferi, delle raffinerie, eccetera. E quindi, come dire, il danno è stato estremamente pesante. Ci sono delle analisi fatte, ripeto, verso la fine del fenomeno, che hanno valutato che, insomma, in sostanza il 10% della struttura economica degli Stati Uniti è stato sottoposto a questo tipo di stress. Però, ripeto, i giornali poi, siccome si tratta di stime da fare, di analisi economiche, lasciano perdere. e quindi all'occhio del, diciamo, del lettore di un giornale anche attento, anche dei giornali seri, mettiamola così, di tipo capitalistico, ma insomma abbastanza seri, non valutano esattamente che cosa è successo. Un unico punto ancora, oltre alla zona, diciamo, petrolifera, è anche stata la zona che è stata colpita dalle acque, perché immediatamente dopo il ciclone, nel senso la parte finale del ciclone, ci sono stati delle alluvioni, nel senso di una quantità di pioggia estremamente rilevante. E qui però mi fermo, però poi ne parliamo, perché vorrei spiegare un'altra parte del fenomeno. E va bene, allora andiamo in pausa musicale, ascoltiamo un brano dei System of a Down. Torniamo in diretta con Entropia Massima dopo questa tempesta dei System of a Down, Bring Your Own Bobs, celebre brano antimilitarista, ma ritorniamo a un'altra tempesta. Vai Alberto. Sì, quindi volevo far capire che quest'uragano non è solo tempo, cioè non è solo, scusate, solo vento, l'uragano comporta acqua, nel senso che ci sono cadute delle masse di acqua in zone appunto tipo il Texas che non si erano mai viste prima, e ci sono una serie di dettagli che è un po' lungo da spiegare, ma il discorso è che fumi che hanno esondato dighe che sono cadute a Porto Rico, l'isola di Porto Rico, c'è stata una diga che ha ceduto e c'era sotto un villaggio, insomma, cioè sono fatti molto rilevanti che succedono, cioè non è un po' di pioggia, cioè la gente sta con l'acqua, diciamo, alla vita, no? E per parecchi giorni. Infatti l'altro aspetto importante dal punto di vista sempre del petrolio è che questa zona del Texas era anche una zona del fracking, cioè la zona in cui si fanno questi scavi a parecchia profondità, spesso a 4.000 metri, si spaccano le pietre e tutta la morchia che c'è intorno di petrolio condensato, direi, no? E può essere aspirata, poi viene purificato, eccetera, eccetera. E il problema è che ancora non abbiamo nessun elemento di conoscenza per sapere cosa è successo in questo giacimento, cioè in quest'area, con il fracking in corso, e quando i pozzi si sono riempiti di acqua, perché non è semplicemente uno mette una pompa, la aspira e finisce lì, insomma, cioè, cambia completamente il sottosuolo. Ecco, allora questi, siccome dal fracking dipende quella che è stata raggiunta dagli Stati Uniti, cioè una quasi autonomia nel consumo del petrolio, della produzione nel consumo del petrolio, non è una cosa secondaria, è una cosa abbastanza fondamentale. Però di questo ancora non ci sono abbastanza informazioni, e soprattutto i nostri giornali, non può essere gli scienziati lo stiano studiando, ma sui nostri giornali non appare nulla a questo livello di analisi e di approfondimento. Allora, l'altro, in pratica, quando ci sono una scritta, cioè l'agenzia meteorologica, cioè la NOAA americana, dice la stagione ha il potenziale di essere estremamente attiva e potrebbe essere la più attiva dal 2010. Allora dobbiamo stare attenti, perché nel 2005 era Katrina, cioè era il periodo delle alluvioni nella zona vicino a New York, quindi non è una cosetta dire, cioè affermare che con ogni probabilità quello che sta per succedere è superiore di quello del periodo precedente, dove già ci sono state a New Orleans sono morte 3.000 persone, non 5 o 10 o un vecchietto sorpreso dall'acqua, no, cioè è un discorso completamente diverso. Allora, questo mi il problema è che poi, ultimo passaggio, nell'ultimissimo tempo, sempre in tempi molto ristretti, ne è già arrivato un terzo. C'è un nome più meno impegnativo, si chiama Maria, però non è altrettanto forte, questo dobbiamo dire. Però c'è stata questa fase estremamente pericolosa. L'altro problema è che, data la sequenza, cioè quando tutti i centri che stanno studiando questi fenomeni, quindi nel tempo, la loro evoluzione nel tempo, si può affermare che l'estate prossima sarà peggiore di quella che è appena finita. Non so se è chiaro, cioè tenderanno a continuare ad aumentare di velocità, di potenza e quindi di potenziale di danno, perché non c'è nessun meccanismo che sta interrompendo quello che sta, diciamo, l'origine di questi fenomeni. Questi cicloni nascono sostanzialmente da un surriscaldamento dei mari, degli oceani, eccetera. E questo cambia completamente la circolazione dell'aria, cioè è molto complicato spiegare come funziona, e credo che anche gli scienziati non è che sanno esattamente quello che succede, e però il collegamento con il riscaldamento delle acque è assolutamente sicuro, e quindi, siccome non c'è nulla che sta interrompendo il riscaldamento globale, l'estate prossima con ogni probabilità, non faccio lo iettatore di professione, e con ogni probabilità saranno peggio di l'estate prossima sarà peggio di quella che abbiamo appena trascorso. Il secondo passaggio, questi sono i fenomeni, come posso dire, più eclatanti, no? Visti, che si vedono più pesanti, però poi, se si va a vedere le conseguenze economiche, parlano per il solo Harvey di 75 miliardi di dollari di danni Ora, quando si parla di danni è sempre un problema, nel senso che sono i danni rappresentati dalle spese che devono essere fatte per i soccorsi e una parte dei danni che devono essere immediatamente diciamo, su per esempio un'autostrada che viene bloccata, interrotta, eccetera eccetera, deve essere rimessa a posto. Le cifre che circolano sono quelle e c'è pochissima attenzione, anche per la difficoltà proprio di effettuare la rilevazione, sui danni umani, cioè che cosa hanno perso i singoli contadini in termini di raccolto, eccetera eccetera, e la sofferenza connessa a questo tipo di perdite, o uno che ha perso tutta la casa con tutti gli oggetti che c'erano dentro, eccetera eccetera. Cioè questa parte qua non è quantificabile secondo la logica capitalista, però esiste, a questo punto è estremamente pesante il bilancio se si tiene conto anche di questa componente. Quindi le cifre che vengono lanciate dai giornali, insomma, sono, come si può dire, estremamente approssimative e poco significative, anche se sono molto consistenti rispetto al passato. L'altro aspetto che dobbiamo sottolineare è quello del caldo, cioè abbiamo la sensazione, almeno i dati che escono, che vengono presi in considerazione, vengono citati, dicono che il caldo ha raggiunto dei limiti estremamente elevati. Quindi finora abbiamo detto della stiamo parlando solo di cicloni, perché diciamo è la cosa più impressionante, se volete, è più documentata, nel senso che appunto ci stanno molte informazioni, eccetera eccetera. Quindi diciamo il riscaldamento delle acque sicuramente è tra le cause, no? Adesso invece ci parli, certo, del riscaldamento generale, a settembre, non solo delle acque. Ecco, sono cominciati, invece, questi erano i dati più o meno di agosto e primi giorni di settembre. I dati di settembre ci danno invece il discorso del riscaldamento. Esatto. Perché il riscaldamento in genere bisognerebbe controllarlo in termini, come si può dire, annuali, no? La sensazione, cioè le prime cifre che vengono date, è che il riscaldamento pone il 2017 come secondo o terzo anno più caldo di tutti i tempi. Quindi il 2003 è il primo sicuramente, il 2017 non dovrebbe aver superato il 2003, però è molto caldo, ed è molto caldo sempre appunto in... Allora, questo tipo di discorso dipende esclusivamente, come ben sappiamo, dalla diffusione dei gas dell'anidride carbonica, del metano, eccetera, cioè tutti i gas serra, che non c'è solo l'anidride carbonica, sono almeno sei quelli più importanti. Però non stiamo facendo assolutamente nulla per modificare questa situazione. E allora, è davvero da idioti infischiarsi nel surriscaldamento mondiale. Dedichiamo quindi questo pezzo a chi non sta facendo nulla, anzi sta facendo passi indietro anche nello scenario globale di teneri tentativi di mitigarlo. To watch you. out to idiot America. American Idiot, il brano dei Green Day, e per l'ultima pausa musicale riprendiamo la diretta con Alberto sui cicloni e gli cedo subito la parola. Ecco, la parte invece clima, proprio nel senso di caldo, freddo, eccetera, si parla di siccità record. Gli ultimi 9 mesi i più secchi dal 1800. Cioè sono 800, tutto 900 più 20 anni, no? Di questo secolo, e questi sono i più secchi. I 9 mesi sono da dicembre 2016 fino a agosto 2017, quindi questi dati sono stati elaborati rapidamente e sono usciti, diciamo, a metà settembre. Ecco, questa è la realtà, quindi significa siccità diffusa in gran parte del pianeta. Allora anche qua dobbiamo riuscire a mettere insieme delle immagini, come si può dire, che sono apparentemente contraddittorie. Cioè, noi abbiamo un allargamento, un ampliamento delle aree dove esiste la siccità, quindi siamo passati dal solo deserto del Sahara a tutta una serie di altre aree. In Italia 2/3 dei terreni coltivabili quest'anno hanno sofferto la siccità, e poi ci abbiamo avuto delle difficoltà idriche, nel senso del rifornimento idrico, perché ovviamente tutti i laghi erano calati, di tutta l'acqua prelevata non era sostituita da altra, l'acqua che arrivava. Per esempio, la cosa importante che a noi ci può colpire, le fonti del Po si sono inaridite, perché c'è un punto che viene tradizionalmente, diciamo, è l'origine di un ruscelletto che è il più a nord, e poi a questo ruscelletto si aggiungono altri ruscelli e poi fiumi, eccetera, e esce il Po. Ecco, i primi, cioè quelli più in alto, eccetera, sul Monviso, sono secchi, che non è solo un simbolo, è un discorso che significa che c'è questa siccità diffusa. Però contemporaneamente, siccome c'è molto caldo, tutta l'umidità che viene creata non va a scaricarsi nelle zone secche, si va a scaricarsi in certi posti, oppure appena cominciano i primi freddi. Quando si scarica, siccome c'è stato uno spostamento, cioè c'è stata umidità proveniente dai mari che si riscaldano e emettono vapore, e questo diventa umido. Umido significa vapore acqueo, che però si concentra in alto. Quando cominciano i freddi e comincia a piovere, la pioggia arriva in maniera molto densa, cioè millimetri per centimetro quadrato, metro quadrato, sono molto di più che in passato. E allora qui succede, che cosa succede? Quello, delle cose che noi abbiamo difficoltà a mettere insieme, cioè per esempio la terra secca non assorbe acqua, o comunque non l'assorbe come apparentemente dovrebbe, e viceversa la lascia scivolare, e quindi i fiumi si riempiono di più, eccetera eccetera. C'è un problema per esempio su tutta la parte del Vesuvio, perché tutte le zone si sono seccate, là, tutte le parti dei pendici, e l'acqua scivola su queste zone, in particolare dove c'è stata la lava, eccetera eccetera, nella storia, diciamo, nel passato, e quindi le abitazioni o i villaggi che stanno alle pendici del vulcano sono a maggior rischio, perché arrivano delle quantità d'acqua molto superiori a quelle canalizzate normalmente dai ruscelli, eccetera. Allora, questo è quello che sta succedendo, e quello che succederà nei prossimi giorni e mesi, perché avremo delle precipitazioni molto concentrate, e quindi appena abbiamo visto a Roma quello che è successo, e succede anche in altre zone. Quindi noi contemporaneamente abbiamo un fenomeno di siccità ancora in atto, perché non è stato, come dire, risolto, sostituito da, e invece dei fenomeni di alluvione, cioè di quantità d'acqua massiccia che arriva all'improvviso e che a sua volta ha dei grossi problemi, crea grossi problemi, perché noi abbiamo canalizzato molti fiumi, molti, diciamo, ruscelli per capirci, ma insomma molti torrenti. Canalizzare significa ci abbiamo costruito delle rive di cemento e ci abbiamo costruito sopra, cioè delle traverse di cemento, e quando l'acqua arriva in quantità molto maggiore di quella prevista per, nel passato, cioè che come acqua di scarico che doveva essere velocemente canalizzata e spostata verso il mare, e questo non avviene, cioè si spinge e fa tappo dove ci stanno le cementificazioni, cioè in genere dentro le città, e a quel punto succede di tutto. Allora, ripeto, noi abbiamo difficoltà proprio mentale, che noi siamo stati abituati a un po' di caldo, poi c'era la pioggerella, cioè tutti i giornali. Il mese di ottobre è stato tristissimo, perché tutti quanti parlavano, ci sono le ottobrate. Le ottobrate erano tre giorni nel passato, cioè 30-40 anni fa, perché erano un fenomeno così, poi derivante dal fatto che Roma sostanzialmente vicino al mare, eccetera, eccetera. E noi abbiamo avuto le primissime piogge, le abbiamo avute i primi di novembre, cioè gli ultimi giorni di ottobre, i primi di novembre, altro che ottobrate, cioè è stato più di un mese con un caldo che era ancora il caldo, diciamo, estivo, perché era di quel tipo lì a fine ottobre. Ecco, quindi queste sono le cose abbastanza importanti. Allora, io non so come, se vogliamo dire alcune cose, quello di cui possiamo, ci sarebbero un sacco di altri fenomeni da trattare. Io vi lascio questo materiale, queste schede, e credo che nei prossimi giorni li potete trovare sul sito, perché sono cose molto semplici da leggere, nel senso si capisce tutto, insomma sono tratte da giornali molto semplici, insomma sintetizzate, insomma non c'è, sono ragionamenti complessissimi. Il problema, ci deve essere uno sforzo di analitico, cioè dobbiamo cominciare a essere più elastici con il nostro cervello e capire cosa sta realmente succedendo. Allora, questo è piuttosto importante, nel senso che è la parte più difficile del lavoro che dobbiamo fare, perché è quello che, cioè, ho visto un dato che non so come è stato calcolato, quindi ve lo dico così, però sembra che ancora il 40% della popolazione mondiale non sappia che cosa sta succedendo nel clima. Quindi non è solo Trump che non capisce che sta succedendo, ma è che proprio c'è un'ignoranza di base, ignoranza nel senso di mancata informazione, che è molto pesante, e quindi non c'è una pressione popolare, politica, no, che spinga verso la presa di coscienza di questi fenomeni. A livello internazionale ancora adesso sta in corso, e poi ne parleremo nelle prossime trasmissioni, è in corso la COP23, cioè la COP21 era quella in cui è stato deciso il mega accordo, quello da quale Trump sta cercando di sfilarsi, e però a tutt'oggi, e questa è la 23, cioè c'è stata un'altra di transizione, direi, perché ancora non tutti i paesi avevano firmato, cioè, insomma ancora era, come dire, l'attuazione del programma dell'accordo ancora non era potuta cominciare. Questo invece c'è, cioè, l'accordo firmato, ratificato ed è entrato in vigore. Però attenzione, è entrato in vigore ma non è vincolato, cioè ancora tutti i paesi possono assumere degli impegni, ma se poi non li rispettano o decidono di non rispettarli per vari motivi, c'è un problema. Ecco, quindi manca ancora nella sede internazionale ONU, dove pure c'era il mega comitato di scienziati che aveva fatto tutte le previsioni, eccetera, cioè dove la presa d'atto di quello che sta succedendo è abbastanza forte a livello scientifico nell'ambito ONU. Il problema è che a livello politico l'ONU si è abbastanza reso conto durante proprio l'accordo di Parigi che tutti i paesi erano coscienti dell'esistenza del problema, ma non erano disposti ancora a prendere degli impegni, soprattutto nei tempi necessari. Ecco, quindi noi ci abbiamo di fronte ancora un grosso lavoro da fare, no? Nel senso di spinta per far capire la portata reale. E allora sì, è necessario che si fortifichino i movimenti dal basso, sicuramente siamo parecchio lontani dal creare una massa critica che chieda a gran voce. Però se ci pensi un attimo, sono anche tutte situazioni in cui poi i danni si verificano nei tempi, no? Adesso per esempio tra gli ultimi dati che sono usciti finalmente un gruppo di esperti ha calcolato esattamente quanti sono i comuni che stanno in zona sismica. Sono 648 in Italia, chiaro. In Italia, sì. Allora, cioè, quanto tempo ci abbiamo perché succeda un altro terremoto e ci troveremo per l'ennesima volta in emergenza? Ecco, però ci abbiamo per l'estate prossima abbiamo 6 mesi, perché ne sono già passati 2 in termini di estate. Ecco, quindi a maggio ci troveremo con la siccità, l'acqua che non è, e se in quel momento non avremo fatto nulla per i sistemi di adduzione di acqua, ci troveremo nello stesso guaio che abbiamo attraversato 2 mesi fa. E va bene, siamo in chiusura. Prima di salutarci vogliamo dare un abbraccio a chi ci ascolta da dietro le sbarre o privato della propria libertà personale. L'appuntamento è per lunedì prossimo con Entropia Massima.